L'altra Europa. Benvenuti all'Altra Europa dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro appuntamento settimanale per conoscere, per respirare la cultura europea attraverso le notizie dell'altra attualità, un programma in collaborazione con Euronet, il nostro network al quale apparteniamo di radio europee, appunto per dare un'idea di cosa voglia dire oggi respirare il costume, respirare la cultura europea. Anche oggi tante mete, tanti viaggi, tanti ospiti e partiamo da un viaggio che ha attraversato l'Europa. Questa, una particolare presentazione. Wir befinden uns hier in Moskau, unweit des Roten Platzes. Bene, come vedete siamo a Mosca, siamo non lontani dalla Piazza Rossa. Sono iniziati i preparativi per la festa del 1° maggio, giornata dove si festeggia i lavoratori, la giornata dove si festeggia la primavera. Ma qui a Mosca è successo qualcosa di veramente particolare. Da ieri infatti alloggia all'albergo Metropol, sempre non lontano dalla Piazza Rossa, un personaggio veramente importante, dal quale adesso cercherò di farmi rilasciare un'intervista. Logiert ein bestimmter Mann. Mosca, Lisbona, in treno attraverso l'Europa. Due giornalisti, un tedesco e un italiano, 9 paesi, 11 città. Un viaggio che si è svolto qualche mese fa, un viaggio che è diventato un film, presentato ieri, e il protagonista italiano, il giornalista italiano, è Beppe Severnini. Ciao Beppe, buon sabato. Buon sabato a tutti voi. Una bella sfida tentare di raccontare l'Europa con un viaggio. Sfida riuscita? Ah, non lo so, non sta a me dirlo, però abbiamo scritto un blog, tra l'altro è stato tradotto in tutte le lingue d'Europa, dei paesi che abbiamo attraversato, più italiano e tedesco, perché non siamo passati in questo viaggio in Italia e in Germania. L'idea è insieme del Goethe Institute, con il Corriere della Sera, la Zeit. Abbiamo fatto sia video che... quando ho sentito quella musichetta, Federico, sì, mi è venuto un riflesso pavloviano, perché mi è venuto di voglia di chiudere la valigia e salire su un treno. Questo è stato un... diciamo, io faccio giornalista da 30 anni, mi sono occupato di un sacco di grane, anche in queste ore, in questi giorni, devo occuparmi di un sacco di grane, italiane non solo, e quella è stata veramente una bellissima vacanza. Cioè, vacanza... spero intelligente, però andare a vedere il profumo dell'Europa e fare quello che da ragazzi si faceva con l'Interrail, certo, infatti, per salire sui treni, e questa è una roba da teenager, e farla a 50 anni mi è piaciuto tantissimo. E Kiev, Cracovia, Praga, Vienna, Zurigo, Lione, Marsiglia, Barcellona e Madrid, questo è stato un po' l'itinerario da Mosca a Lisbona. E che Europa ti sei portato a casa, Beppe, dai finestrini del treno? L'hai respirata questa Unione Europea o hai visto tanti pezzi di uno strano collage? No, l'ho respirata, e come? Mosca è un po' diversa, l'Ucraina è ancora diversa, ma diciamo da Cracovia a Lisbona le similitudini sono moltissime. Diciamo che l'Europa esiste, e i passi avanti delle città dell'Europa centro-orientale, noi siamo passati appunto a Cracovia, siamo passati a Praga, ma sono stati moltissimi, e ti accorgi che c'è proprio un'aria, i menù dei ristoranti, le macchine che la gente guida, le abitudini, i caffè, tu ti accorgi che sei nello stesso continente. Poi è evidente che la Polonia non è il Portogallo, però... bisogna essere un po' gli americani di noi stessi, cioè venire in Europa con l'occhio di un americano che vede il bosco invece di vedere gli alberi, e noi europei invece amiamo vedere i tronchi degli alberi, anzi andarci a sbattere il naso contro. Beppe, di rapporti tra Italia e Germania se ne parla da sempre, se ne parla tanto anche in queste ore. Lì eravate 4 occhi, 2 occhi italiani, 2 occhi tedeschi, vedevate le stesse cose? Beh, c'erano altri 2 paia d'occhi, perché c'era Soledad Ugolinelli, da me soprannominata Ugo, sì, che è una bella, brava, intelligente interprete, che però faceva anche altri 11 lavori, l'organizzatrice, la producer, la traduttrice, l'interprete, faceva di tutto, molto molto brava, e ci ha molto aiutato. E c'era poi il cameraman, che si chiama Gianni Scimone, ha lavorato per Corriere TV con me da anni, e quindi il videoblog è merito suo. Quindi gli occhi erano 2x4, 8. E sì, le differenze fra me e Mark c'erano. Diciamo che il vero tedesco ero io, perché ero puntuale, avevo il bagaglio più piccolo, era ben organizzato, e lui invece aveva un bagaglio gigantesco, faceva casino, era un po' più ansioso di me, era in ritardo sui treni, e io continuavo a scuotere la testa e dicevo: mamma, questi tedeschi non sono più quelli di una volta. E tra l'altro ho visto qualche spezzone delle film, ci sono anche proprio dei corsi sul come per esempio si riconosce un italiano, c'era una tua teoria del pullover, mi pare. Eravamo sul ponte, su un ponte a Lione, una città molto bella, tra l'altro di tutte quelle che ho attraversato era l'unica che non conoscevo, gli altri 10 ero già stato più volte, e Lione è molto bella. Eravamo sul ponte e mi ricordo, lui mi chiede: ma come si riconosce un italiano? Allora io, per scherzo, c'era la cinepresa, gli ho spiegato la teoria del golfino, cioè se uno porta il golfino annodato in vita è un italiano, è matematico, è una cosa assoluta. Sai che è un'immagine che ha un qualcosa di, sì, di triste, ma è vero, però siamo noi, siamo fatti così. Insomma, Beppe, anche questa volta hai trovato un bel modo per raccontare la società, in questo caso la società europea, e veramente quella, c'è nostalgia dell'Interrail che tutti noi da giovani abbiamo fatto, si è un po' persa questa, chiamiamola moda, questa usanza, questa opportunità, però credo che sia, come hai detto anche tu, davvero da rivalutare. Mosca-Lisbona in treno attraverso l'Europa, un film che ci sarà la possibilità di vederlo, come verrà diffuso, Beppe? Allora, non lo sappiamo ancora. Perfetto. Perché adesso, ieri sera l'abbiamo mostrato a Roma in anteprima, nella casa del Goethe, che quindi i padroni di casa, Goethe Institute a Roma. Lo faremo vedere a Lisbona e a Madrid, all'Istituto di Cultura e al Goethe là, che si mettono insieme, poi a Berlino il 2 dicembre in ambasciata, nella nostra ambasciata di Berlino. Però queste sono, diciamo, per chi vuol venire, per ospiti, non so, forse lo metteremo in rete su Corriere TV, magari è una possibilità. L'anno scorso abbiamo fatto Berlino-Palermo, sì. E in effetti l'abbiamo poi messo in rete, e l'anno venturo ho le migliori intenzioni di fare Atlantico-Pacifico, così mi vedo anche i preparativi per la campagna elettorale americana. www.goethe.de è il sito ufficiale per avere tutte le informazioni, anche appunto sul come poter vedere questo film. Ciao Beppe, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia. Arrivederci, salite sui treni, viaggiate, non state fermi, lo dico ai ragazzi di 18 anni, è molto più pericoloso andare in una discoteca di notte che andarsi a fare un bel viaggio in treno attraverso l'Europa. E vogliamo essere eco di questo invito. Ciao e grazie. Ciao a voi. Europosted. L'Altra Europa speciale. Sabato prossimo, 1 ottobre, l'Altra Europa sarà in diretta dal Festival Internazionale a Ferrara con una puntata speciale. Insieme a Federico Taddia ci saranno tanti ospiti speciali per parlare di Europa da questo importante festival che tutti gli anni riunisce alcune tra le migliori esperienze culturali e giornalistiche internazionali. Vi aspettiamo dalle 10 al Chiostro San Paolo a Ferrara. Per saperne di più, internazionale.it. Wir brauchen eine transparente Verwaltung, um Politiker kontrollieren zu können. Geheimverträge lehnen wir ab. Prävention und legaler Vertrieb helfen, Missbrauch vorzubeugen und Kriminalität zu vermeiden. Kinder wachsen auch mit zwei Vätern oder Müttern behütet auf. Die S-Bahn soll Menschen durch Berlin und nicht Gewinne einfangen. Quello che state ascoltando è uno degli spot elettorali del Partito dei Pirati, la vera sorpresa delle recenti elezioni a Berlino. E proprio a Berlino vogliamo andare. E con noi c'è Ambros Weiber, giornalista del quotidiano TAG, amico dell'Altra Europa ormai. Ciao Ambros. Ciao Federico. Ciao, molto bene, grazie. Tu? Sto benissimo, grazie. E il lavoro non vi è mancato in questi giorni, dalle parti di Berlino, mi pare. Sì, c'è molto, ci sono le elezioni, c'era il Papa, c'è abbastanza da fare. Certo, e infatti non so da dove partire, perché sono tanti gli argomenti che volevo toccare con te, però il primo che ci ha dato anche lo spunto per tornare a parlare della capitale è un articolo che abbiamo letto qualche giorno fa, dove si parla di Berlino, città viva, città simbolo della d'Europa, no? Questa città che insomma è diventato un faro dal punto di vista culturale, sociale e non solo, però con qualche lato nero. E infatti il titolo era Berlino vittima del suo successo. È vero che oltre a questa Berlino di facciata c'è tutta un'altra Berlino fatta per esempio di speculazione edilizia, fatta di grosse differenze sociali, ci sono i ricchi ma ci sono anche tanti tanti poveri. È davvero vittima del proprio successo Berlino? Sì, diciamo, questo sembra un po' la cosa un po' drammatizzata, no? Berlino adesso sta per diventare, e speriamo che abbiamo ancora un po' di tempo, una metropoli normale, no? Certo. Come Roma o Parigi, ma credo che abbiamo ancora diciamo 10 anni forse un po' più tranquilli. La speculazione edilizia c'è perché a Berlino, diciamo, ancora a buon prezzo, in paragone con Londra o Parigi o Roma, si comprano delle case. Allora i grandi fondi finanziari l'hanno scoperto e ovviamente qui fanno un buon affare. Poi la povertà, Berlino ha avuto un cambio della sua popolazione, no? Sì. Ci sono arrivati moltissimi giovani da tutti i paesi d'Europa o del mondo, ma molta gente che usava abitare al centro di Berlino non può più permettersi di starci, perché loro hanno lavorato nelle vecchie industrie e queste vecchie industrie non ci sono più. Adesso c'è un altro forma di business a Berlino, ci sono le ditte internet, c'è il turismo, e ovviamente queste persone, diciamo, quello sicuramente hanno perso con questo nuovo Berlino. Quindi veramente una città rinnovata, non solo nella sua storia, non solo nell'essere diventata capitale, ma proprio anche nella sua quotidianità, anche perché appunto la struttura sociale che la compone, come tu ci stai raccontando, diciamo, questi, si sta modificando. Questi quartieri in moda, ovviamente spesso quasi la metà della vecchia popolazione se n'è andata in periferia, dove le case in affitto sono ancora costano poco o costano meno. Questo sì, questa era la realtà di questa città, no? Ecco, e l'esplosione del Partito dei Pirati secondo te è strettamente collegata a questa nuova faccia di Berlino, nel senso che Berlino giovane, Berlino attiva, Berlino viva, Berlino tecnologicamente avanzata, proprio lì e solo lì potevano esplodere il Partito dei Pirati? Sì, comunque credo che come si è detto anche, diciamo, nella TV tedesca qualche giorno fa, i pirati sono un partito delle grandi città. Poi a Berlino, con questo, come ho detto, con questo cambio della popolazione, sicuramente per loro un posto ideale. Poi però, diciamo, i pirati sono anche la manifestazione di un risveglio politico di un'intera generazione, diciamo la generazione che è fra i 20 e 30 anni, no? Sì. Loro attraverso la cultura dell'internet non vogliono più votare un politico e poi aspettare se lui o lei faccia del bene o del male. Loro vogliono una politica di partecipazione quotidiana, sempre con i mezzi digitali dell'internet. Diciamo, è un, come detto, è la manifestazione di proprio dei giovani. Certo, dei giovani, della loro voglia, del loro desiderio di partecipazione. Sì. In Italia, ma anche nel resto d'Europa, si è letto tantissimo di questi pirati. Lì, da Berlino, come sono visti? Cosa hanno capito i berlinesi del Partito dei Pirati? Sì, ma più che altro loro hanno capito, diciamo, molto con grande intelligenza, che, diciamo, il vecchio partito dei giovani, i Verdi, sì, hanno perso molto, hanno perso molto energia, molta vicinanza, diciamo, con la gente per strada. I Verdi sono diventati un partito normale, e qui i pirati hanno perfettamente capito che c'è una parte della popolazione che non è diciamo, imborghesito, no? Ma che vuole veramente fare, non solo votare e poi aspettare, che vogliono veramente far parte di una comunità. E questo, secondo me, loro hanno capito benissimo. Certo. Poi, diciamo, il programma è un po'... Non è né di destra né di sinistra, ci sono elementi, diciamo, ultraliberali, ma ci sono anche elementi, direi, molto interessanti. Per esempio, loro vogliono che il trasporto pubblico sia gratuito, che a prima vista sembra una cosa utopica, invece hanno un concetto abbastanza bello. E per una città come Berlino, dove molte persone non hanno la macchina, neanche io ho la macchina, diciamo, fare questo progetto del trasporto pubblico libero mi sembra una idea valida. Quindi non solo un partito di protesta, ma anche un partito di proposta, e anche al di là di quello che è il discorso internet, no? Da lì sono partiti, è stato un po' il biglietto da visita, però mi pare che abbiano proposte operative anche su altri campi. Ma è stata una sorpresa anche per voi giornalisti, o avete sondato che poteva esserci un risultato così eclatante? Sì, ma diciamo, devo dire che noi come TAZ, che siamo sempre vicini alle alternative in politica, che siamo sempre anche, per esempio, stati molto vicini al movimento gay o a tutti i movimenti che vogliono, a tutti i movimenti sociali, sì. Noi già da qualche anno, diciamo, ci sentiamo abbastanza vicino a questo partito. Credo che noi anche l'abbiamo capito, siamo stati il primo giornale in Germania online, così per noi non era una grande sorpresa, no. Ok, insomma, quindi eravate sul pezzo, come si suol dire giornalisticamente. Speriamo. Grazie davvero ad Ambrose Weibel, giornalista del quotidiano TAG, www.tazze.de il sito per chi volesse conoscere meglio la testata. Ciao Ambrose, buon sabato e a presto qui all'Altra Europa. Buon sabato a te, ciao e agli ascoltatori, ciao, alla prossima. Europost-it. Giornate europee del patrimonio. Amanti dell'arte e del bello, attenzione! In questo weekend di settembre si celebrano in tutta Europa le giornate del patrimonio. Un'occasione per ricordare quanta ricchezza di edifici ed opere d'arte ospita il nostro continente. E quale miglior modo per celebrare questi luoghi se non visitandoli? Fino al 25 settembre, tutti i siti statali di interesse culturale, gli edifici artistici e storici e i musei europei saranno aperti e visibili da tutti i cittadini dell'Unione Europea completamente gratis. Correte subito sul sito dedicato a queste giornate dal Consiglio d'Europa, ehd.coe.int, o su beniculturali.it. De mensen die wij daartoe hebben opgeroepen, of die een optimistische visie konden neerleggen in de troonrede. Bart, je hebt de inzendingen bekeken. Ja, en dat waren op het begin ontzettend veel. Dat was eigenlijk al ons eerste steuntje in de rug en tot optimisme stemmend. We hadden dit niet eerder gedaan, deze oproep via onze site. En hebben meer dan 700 mensen een tekst, fragment, reden... Ancora l'altra Europa e ancora partecipazione attiva dei cittadini alle scelte del governo. Siamo in Olanda, dove c'è stata una particolare proposta lanciata da un programma televisivo. Per capire però bene quello che è successo, abbiamo invitato la nostra voce ufficiale di fatto da Amsterdam, e con lui ogni mese ci siamo collegati per avere qualche anteprima sulle novità online europee. Diamo il ben ritrovato a Christian Hesser. Ciao Christian. Ciao Federico, ciao. Per te, esperto di internet, esperto di nuove tecnologie, credo sia stata una bella soddisfazione vedere appunto la rete utilizzata per fare opinione. Cos'è accaduto in Olanda? Guarda, l'esperimento è bellissimo e come dici tu, essendo esperto internet, son contento perché vediamo che finalmente queste nuove tecnologie vengono usate e fa sì che ci sia un'opinione un po' più grande, nel senso che ci sia la possibilità di vedere cosa vogliono veramente le persone. E fotografici la situazione. Ecco, come prima cosa devo spiegarti cos'è il meccanismo. Il meccanismo si chiama crowdsourcing. E significa, che viene usato online, significa usare la forza della massa, nel senso, sia dall'avvento dei social media abbiamo avuto dall'inizio la possibilità di dialogare dal vivo con grandi gruppi di interessati, dando vita a discussioni, dando nascita a nuove idee, collaborando insieme a grandi progetti. E questo è possibile perché usiamo la tecnica di dialogo del social media per chiedere informazione a grandi gruppi di persone. In questo caso, in Olanda, bisogna sapere che ogni primo martedì di settembre, ogni anno, ogni terzo martedì, c'è questa cosa che si chiama troonrede, che te la traduco letteralmente, significa il discorso del trono. Ed è nient'altro che un discorso che viene dato dalla regina ogni martedì, terzo martedì di settembre, per dare un'indicazione di qual è il nostro futuro del paese. Okay. Questo discorso viene scritto da lei insieme al primo ministro. Cosa ha fatto questo programma televisivo? Ha detto: vediamo se noi riusciamo via crowdsourcing a chiedere al popolo di scrivere questo discorso alternativo, nel senso, se la regina lo può fare col primo ministro, cosa pensiamo noi come popolo, e vediamo cos'è il risultato da parte nostra. Sì. La domanda che hanno fatto è stata però una domanda: cercate di, se volete partecipare a scrivere questo discorso, il nostro discorso, cerchiamo di approcciarlo dal punto di vista ottimistico, vediamo di scrivere cose buone, di inventare idee nuove, interessanti. Quindi qualcosa di propositivo, di costruttivo, diciamo, non satira, non deridere, insomma, l'operato del governo. Esatto. Il bello è che al primo inizio la gente che è scettica pensa: se noi diamo il potere al popolo di parlare, allora lì vengono giù le cose più abominabili che ci vengono addosso. Il contrario è il vero. 700 persone hanno partecipato a scrivere a questo discorso e 6.000 persone hanno votato quello che loro pensavano fossero gli interventi migliori. Non c'è stata alcun tipo di censura e tutti i commenti sono venuti sia dalla sinistra che dalla destra, nel senso, hanno avuto questa immagine sia di sinistra che di destra. Le cose più interessanti che sono saltate fuori sono, per esempio: se noi come paese dobbiamo pensare al futuro, perché non obblighiamo tutti gli edifici statali a mettere dei pannelli solari sul tetto? Perfetto. Un'altra bellissima idea che hanno messo è, per esempio, perché ogni comune non ha anche un sindaco bambino? Sì. Mm-hmm. Cose che assolutamente sono interessanti da fare. Un'altra cosa, e questa anche era bella l'idea, via una lotteria nazionale, facciamo in modo che ogni mese 12 persone vengono invitate a pranzo col primo ministro. Così, in modo, insomma, che lui possa vedere chi è il popolo, possa vedere quali sono qual è il sentimento, le cose, eccetera. Ecco. Questa cosa è solo possibile adesso che possiamo usare i social media per avere questa informazione. Se me lo chiedi a me personalmente, ci abbiamo messo modelli di analisi e ricerca live, dove il dialogo, in questo caso con il popolo, può dare indicatori utili per poter prendere nuove decisioni anche a livello parlamentare. Perché andiamo noi a votare, ci affidiamo a ministri e parlamentari e li lasciamo lì e non usiamo queste possibilità? Anche perché, insomma, credo che il passaggio importante sia che usi il popolo non solo per raccogliere opinioni o per avere adesione o per avere consenso, ma sfrutti questa opportunità che è quella di avere idee, hai tante teste che possono pensare, quindi la proposta giusta può sempre saltare fuori. In Islanda stanno usando un meccanismo simile per riscrivere la Costituzione, ma la regina ha reagito, nel senso, ha ascoltato queste proposte, c'è stato qualche feedback o non si sa? La regina non reagisce mai. Okay. Nella sua posizione non può fare niente, perché abbiamo una monarchia costituzionale, lei non può avere neanche un certo tipo di espressione politica, non può farlo. Però i media hanno reagito in modo interessante e vediamo che hanno fatto sì che la gente inizi a muoversi, inizi a pensare diversamente. Quello è la cosa più interessante, insomma. Insomma, per darti idea, il telescopio Hubble, quando ha fatto tutte queste foto del nostro universo, anche lì hanno usato crowdsourcing per cercare di classificare tutte queste costellazioni e lì, per esempio, 250.000 persone hanno aiutato a classificare le costellazioni, cosa che un istituto da solo non arriverebbe mai a fare. Certo, insomma, quindi è proprio questa, un'opportunità, l'opportunità di far partecipare in maniera costruttiva i cittadini, le persone, gli appassionati, in questo caso si parlava di astronomia. Christian, grazie davvero per averci raccontato questa bella storia, tutta europea, tutta olandese, ma da cui si può partire, credo, e che possa essere replicata anche in altri campi e in altre nazioni. Grazie davvero Christian, ciao e buon sabato. Tieni gli occhi sempre aperti su quello che combina la rete, che vogliamo essere i primi a saperlo, ok? Sicuramente, e saluto anche tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao. Ciao. Europost-it. Itagnoles, un concorso su Twitter e Facebook per avvicinare i cittadini dei singoli stati europei alla cittadinanza dell'Unione. È l'idea degli uffici italiani e spagnoli del Parlamento europeo che hanno lanciato sui due social network più famosi il concorso Itagnoles, per raccontare le storie degli spagnoli che vivono in Italia e degli italiani che si sono trasferiti in Spagna. I migliori tweet che descrivono queste scelte di vita e che compaiono su Twitter e Facebook con l'hashtag, cioè la parola chiave Itagnoles, saranno selezionati, raccolti in un libro e illustrati da un disegnatore. C'è tempo fino a dicembre per scrivere. Trovate tutto su itagnoles.blogspot.com. E questi sono i nostri Europost-it, le nostre dritte che potete ritrovare poi sul nostro sito www.radio24.it. Ma a proposito di concorsi, attenzione perché Euronet ha lanciato la prima edizione degli Euronet Award. Il tema è i diritti dei cittadini europei, una grande opportunità se siete studenti, se avete meno di 30 anni, questo concorso fa per voi, un concorso per aspiranti giornalisti che non hanno ancora avuto esperienze professionali. L'obiettivo è proprio quello di incoraggiare la pratica del giornalismo europeo. Tutte le informazioni le trovate sul nostro sito radio24.it oppure sulle nostre pagine di Facebook. Per candidarsi c'è tempo e fino al 19 ottobre attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica l'altra Europa @radio24.it, ma ripeto, tutte le informazioni per questa prima edizione degli Euronet Award le trovate sui nostri siti. Ed Euronet, il nostro network, ogni settimana sceglie un argomento comune e l'argomento di oggi non può che essere, è appunto dedicato a questa giornata molto importante, la giornata europea delle lingue. Hello, talk to me. Привет, поговори со мной. Merhaba, konuş benimle. Hallo, sprich mit mir. Salut, parle-moi. Vortun, khosirinzed. Ahoy, move со мной. Ciao, parlami. Assalamu alaikum, kellimni. Hello, vanakkam. Vanga, enoda pesunga. Il linguaggio che unisce, il linguaggio che divide, sono oltre 200 le lingue e i dialetti parlate in Europa, e di plurilinguismo se ne parla abbastanza e soprattutto se ne parla con competenza. Questa è un po' la domanda che si è posto Euronet. Anche noi volevamo portare il nostro contributo e abbiamo quindi invitato un'esperta in materia. Lei è una linguista, ex rettrice dell'Ateneo di Bolzano, membro dell'High Level Group of Multilinguism e direttrice del Centro di Competenze Lingue dell'Università di Bolzano. Do il benvenuto alla professoressa Rita Franceschini. Buon sabato, professoressa. Buongiorno, buona mattinata. Grazie. Plurilinguismo, una parola già complicata in per sé, perché racchiude un mondo. E se lei dovesse fotografare lo stato del plurilinguismo oggi in Europa, da dove partirebbe? È un'opportunità o è un ostacolo anche a questa nuova cultura dell'Unione Europea? Ma direi certamente che è un'opportunità, e partirei proprio dal fatto che ormai ci sono tante ricerche che conduciamo anche a Bolzano, ricerche sui vantaggi cognitivi che il multilinguismo ha. Quindi persone che crescono o che acquisiscono più lingue hanno una possibilità di anche aumentare le proprie capacità cognitive. Questo lo analizziamo con bambini, per esempio, delle valli ladine, sì, che certamente si conoscono anche le valli ladine, così, perché si vedono anche le trasmissioni sportive di sci, per esempio, di scesa, di sci in Val Gardena. E sono lì bambini che crescono con tre lingue e danno delle performance cognitive molto elevate. quindi è un'opportunità, però anche un ostacolo ovviamente. Chi non sa più lingue ovviamente ha una cerchia di comunicazione più ristretta, ecco. Certo. Riesce a comunicare con meno persone. Ecco, ma... quindi chi ha più lingue ha esperienze anche più estese e ha un bagaglio di ricchezza comunicativa che certamente è un vantaggio. E professoressa Franceschini, la storia, la cultura, la realtà di Bolzano, e lì di multilinguismo si parla da sempre ed è all'avanguardia anche per quelle che sono le proposte fatte, soprattutto con i più piccoli, ma non solo. Ci sono progetti che possono essere progetti pilota ed esportabili anche in altre situazioni europee? Ma Bolzano è certamente in una situazione in cui da secoli ovviamente c'è una convivenza fra lingue romanze e lingue germaniche, quindi dal VII-VIII secolo in poi vediamo tutta una stratificazione di lingue germaniche e romanze. Abbiamo il ladino come una delle lingue più, diciamo, autoctone della zona, e poi varie altre lingue che adesso entrano come lingue dell'emigrazione. E quindi Bolzano, con 6% di circa 7% di persone che provengono da altri paesi, diventa quel crogiolo di lingue che in Europa è assolutamente ormai normalissimo, ecco, che si incontra in un contesto scolastico dove si trovano appunto ragazzi di lingue di minoranze più ragazzi invece che hanno un vissuto migratorio più recente, quindi storia e anche attualità che si incrociano. Ed è questo anche il compito del nostro centro di ricerca, che certo. Guarda e osserva e fa ricerca in questi ambiti, in due grandi progetti europei che oggi stiamo per concludere, per questo sono a Bruxelles. Ecco, appunto perché fa parte anche di questo importante gruppo europeo dove si lavora, si parla di multilinguismo, e lì quali sono gli obiettivi e quali sono i percorsi che state svolgendo? Siamo stati così designati da parte della Commissione europea, 11 esperti, per dare fresh ideas, come avevano formulato loro in inglese, alla strategia sul multilinguismo. Stavo adesso parlando però di due progetti europei che si chiamano Linee e Dylan, sono progetti europei che hanno indagato soprattutto sui diversi aspetti del multilinguismo individuale, cioè quando un individuo diventa plurilingue, però anche quando il multilinguismo a livello sociale pone dei problemi o appunto, come si diceva prima, dà delle opportunità per entrare in contatto con più persone. Abbiamo analizzato le scuole di minoranza, scuole in situazioni anzi di minoranza come le scuole latine. Però anche in Ungheria abbiamo analizzato come si insegna il tedesco, in Inghilterra, però anche a Bolzano e in altre località europee. Abbiamo quindi avuto un confronto europeo molto ampio che ci dà un quadro anche come reagiscono le imprese al multilinguismo, che si sono avverate dei veri partner, le imprese che sanno che valore è il multilinguismo. Certo, per rendere chiara e palesare appunto questa opportunità. Grazie davvero professoressa e in bocca al lupo per il suo lavoro, il suo e quello di tutto il team appunto al quale collabora. Buon sabato e grazie. Grazie a lei, sabato. Cine intră în ea să gâte, mai dorule smaia, ăla a fost tot cu minte. Cine intră în ea să gâte, dă-ne cazuri să mai uite, mai dorule smaia. E in questa giornata dedicata alle lingue europee, ma anche a quelle che sono le culture europee, ci piaceva parlarvi di questa tradizione, la tradizione manele. Sono cantanti, vengono paragonati un po' ai neomelodici napoletani, ma invece è una musica che trae origine dalla cultura gitana che sta esplodendo come fenomeno in Romania. Per capire di cosa si tratta abbiamo invitato il direttore artistico di un ristorante, la traduzione italiana è la locanda del viandante, dove appunto si esibiscono musicisti di tradizione manele. Diamo il benvenuto ad Adrian Visan. Ciao Adrian. Ciao a tutti, buongiorno a tutti quanti. Allora, intanto come si chiama il tuo locale? Qual è la giusta dizione? Il mio ristorante si chiama Hanul Drumețului. Sì? Che significa, mi dicono, la locanda del viandante. Drumețul come camminatore. Perfetto, come pellegrino, diciamo. Sì, pellegrino. Adriana, che cos'è la musica manele? Da dove nasce? Come può essere definita? La musica manele io un misto, diciamo, un misto di musica gitana, un misto di musica autentica, zingara, un misto di bulgaro, turca, napoletano e tutto. Ecco, ma è musica da matrimonio, è musica da festa, è musica popolare? Sì. Musica da feste, o musica da gioia, o musica da un genere di musica che si sente in Romania. Come mai è stata riscoperta? Come mai sta riesplodendo come fenomeno? Come fenomeno è un cantautore qui a Romania, si chiama Dan Armenca. Sì. E lui ha fatto per prima volta questo misto. E tutti dicono, sei bravo, sei meravigliosa, è una musica dinamica, una musica troppo dinamica. E poi, sai? Insomma, è una musica viva, questo sicuramente, viva. No? Okay. Sì, ma oggi tutto tutto è dinamico, tutto oggi. Ok, quindi insomma è un ritmo molto vicino alla quotidianità. Cine a fost Cărciun m-am vrut? Ala a fost un nebun. Cine a fost Cărciun m-am vrut? Ala n-a fost un nebun. Ala a fost un cuvinte. Grazie davvero Adrian per averci dato un assaggio di questo fenomeno che sta esplodendo in Romania, la tradizione manele che ritorna con forza. E con questa musica chiudiamo la puntata di oggi. Un grazie a Margherita Aina che con me l'ha scritta, Filippa Oreggio la parte tecnica. Radio24.it è il nostro sito dove trovate tutte le informazioni sugli Euronet Award e potete riascoltare la puntata in podcast da lunedì, oppure ci trovate in Facebook. Ancora ciao da Federico Taddia. Sabato prossimo l'Altra Europa è in diretta dalle 10 dal Chiostro San Paolo a Ferrara per il Festival Internazionale. Non mancate!